ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Sono le 8, 18 minuti e 43 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati alla terza parte di 24 Mattino, è mercoledì 14 ottobre, al microfono sempre Simone Spezia, più avanti alle 8.35 cambieremo completamente argomento, ci prendiamo una giornata di respiro dai temi del Covid e dai temi correlati al Covid. E ci occuperemo di questo. L'Agenzia Italiana per il Farmaco nei giorni scorsi ha dato il via libera alla distribuzione della pillola, non del giorno dopo, ma dei 5 giorni dopo, anche alle minorenni senza ricetta in farmacia. Questo ha generato una levata di scudi nel mondo cattolico. E proveremo anche ad allargare un po' la riflessione, perché sui temi delle gravidanze indesiderate e dell'aborto molte notizie si sono affastellate in questi giorni e vedremo se c'è un filo conduttore. La vicenda del cimitero dei feti al Flaminio, lo scontro tra il governo e alcune regioni sulla RU486, la pillola abortiva, la vicenda della rete dei 12 comuni che decide di premiare economicamente le ragazze che decidono di portare avanti una gravidanza. 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta anche sul tema più largo, su questa legge, sull'interruzione della gravidanza che poi alla fine non è mai stata realmente applicata fino in fondo, e 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, tutto quello che volete. È però il momento del punto di giornata con Paolo Mieli. Caro Paolo, eccoci, buongiorno, buongiorno. Eccomi qua, e si apre questo punto di giornata con dei complimenti a te, perché prendersi una giornata di riposo dal Covid, in cui non parliamo ossessivamente del Covid... Io uno, due, mi associo, e quindi anch'io parlerò zero o quasi zero del Covid, e uno o due giorni alla settimana in cui vediamo anche le altre cose, secondo me sono salutari, salutari, iper salutari. E se vuoi, guarda, sul Covid me la cavo così, che c'è stato finalmente il DPCM del governo, le cose erano più o meno quelle che si sono lette sui giornali, la prima settimana va sempre allo stesso modo. Come la primavera scorsa, un grande caos di informazioni che filtrano nei giorni precedenti, i giornali che si azzannano a fare previsioni e poi sostanzialmente la montagna partorisce ogni volta un topolino. Non è un buon metodo, soprattutto non è un buon metodo visto che il Presidente del Consiglio ha chiesto per sé poteri emergenziali, non mi sembra, cioè, mi piacerebbe una volta che il governo si riunisse nei tempi stabiliti, non lasciasse filtrare indiscrezioni e poi desse dei provvedimenti chiari, brevi, lineari, che si capiscono e soprattutto che prendano impegni verificabili. Io insisto da tempo, questo governo non prende impegni verificabili, cioè non dice facendo questa cosa e la tal cosa fra tre mesi il virus diminuirà, i contagi diminuiranno, i posti letto saranno migliori, non prende mai impegni verificabili, per cui si andrà avanti così e mi dispiace. Se posso aggiungere una cosa, sì. Il titolo del Messaggero: bloccati gli aiuti anti-Covid, i ministeri tengono fermi 200 provvedimenti, 2 su 3, perché sì, sono bloccati i finanziamenti, non partono, in bilico i contributi per i comuni, la ristorazione, il settore ricreativo. Ecco la vera situazione. Sì, sì. Cioè tutto rimane bloccato, si fa un grande bailamme confuso, la gente non capisce niente ed è assediata da notizie ansiogene dalla mattina alla sera. Errore. Allora, caro Paolo, ti porterei dunque sulla politica e partirei, sì, da questa voce, la voce di Matteo Salvini. Cominceremo, io e Giancarlo Giorgetti, come responsabile esteri, un giro delle capitali europee per creare, rinsaldare relazioni, e settimanalmente ci sarà la collaborazione fra i sindaci, i governatori, i parlamentari nazionali e i parlamentari europei. È una bella svolta, questa di Salvini, attesa forse, sì. Però è una svolta. I giornali più antisalviniani minimizzano, perché siccome Salvini ha detto anche che non si stacca dai sovranisti, però vorrei vedere. Marcello Pera, in quella bella intervista che ha dato al Corriere della Sera, il suo nuovo consigliore per le strategie verso il mondo liberale, l'ex presidente del Senato, ve lo ricorderete tutti, e in questa bella intervista al Corriere data da Antonio Polito spiega che le svolte sono vere quando si fanno lentamente in maniera costruttiva, lui ci crede ovviamente essendo il consigliore, e non quando si fanno con dei colpi di teatro. Proviamo, tu vedo che ci credi e proviamo a dargli fiducia, però verificheremo, è come la caducazione, perché tu sei un credulone. Io sono un credulone, credi. Sto là. Sì, credo. E allora io faccio il cane da guardia e verificherò se almeno sul piano europeo i comportamenti della Lega e di Salvini sono appropriati a un partito che sta andando verso il mondo liberale. A proposito, Paolo, tu ci credi al fatto che Rapettino si ritira dalla vita pubblica? Dopo... No, dalla vita pubblica no, però certo queste dimissioni sono clamorose. Perché se la poteva benissimo cavare, come spesso se la sono cavata i 5 Stelle quando hanno posizioni di comando, perché lì le accuse sono le accuse che hanno portato a una prima condanna sono risibili, sono tutti fatti risalenti alla giunta precedente, anche se poi quelli della giunta precedente sono quelli che l'hanno denunciata. E la cosa più curiosa oggi sui giornali è che Marco Travaglio accusa l'Appendino di eccesso di coerenza, cioè mette in risalto quello che ti stavo appena dicendo brevemente, e dice ma che è tutta questa coerenza, anche perché queste dimissioni dell'Appendino, cioè dimissioni, mancata ricandidatura dell'Appendino, apre tutti quei giochi sotto banco fra PD e Movimento 5 Stelle che vanno guardati molto da vicino, e nella partita si inserisce la Raggi, che è il Messaggero, che è il giornale che più sorveglia la capitale, essendo un giornale romano, il principale giornale romano, dà per sicuro sia che si candiderà Calenda, sia che la Raggi la spunti. Perché dà per sicuro che la Raggi la spunti ad avere l'assenso di tutto il Movimento 5 Stelle? Perché il Movimento 5 Stelle, approfittando del Covid, ha rinviato gli Stati Generali, non si sa più bene quando si terranno, insomma prende tempo, intanto la Raggi e Calenda sono in campo. E anche la il Messaggero dà addirittura per sicuro che poi alla fine il PD cederà e appoggerà Calenda, quindi Calenda mi sembra ben avviato, però come sai in tutte queste cose io sono prudente, aspettiamo e vediamo. Io invece sono un credulone, credo anche a Calenda che si candida con l'appoggio del Partito Democratico, vedremo se sarò smentito anche su questo. No, che si candidi a questo punto mi appare molto probabile, l'appoggio del Partito Democratico sarebbe una sorpresa, perché si è candidato, per dirla così, in modo sfidante, non si è candidato in modo compiacente, dicendo ma in fondo siamo sempre stati amici, già detto io mantengo le mie opinioni, ho i titoli per candidarmi, se voi volete aiutatemi, insomma un modo molto a schiena dritta. E visto che parliamo di politica, prima di chiudere il capitolo politica, mi ha colpito il caso dell'ex ministro Padoan, importantissimo, pregiatissimo personaggio, che passerà a Unicredit, e il Fatto, di nuovo cito il Fatto, lo pizzica, dice bravo, andrai a Unicredit e ti occuperai del Monte dei Paschi di Siena, di cui ti sei occupato come politico, e infatti il Monte dei Paschi di Siena ha avuto un balzo in borsa, insomma. E poi devo fare una considerazione, che sì, è bello in questa stagione triste appartenere a quel mondo di centro-sinistra allargato ai 5 Stelle, perché nella ripartizione delle cariche degli enti pubblici, il caso Monte di Unicredit non fa parte di questo capitolo, però sto osservando È meraviglioso. Una capacità di inserirsi, una capacità di inserirsi particolarmente forte. Vogliamo dirla. Degli eufemismi a proprio. Ma sì, allargano i consigli di amministrazione, proprio tutti, tu che sei notoriamente uno che appartiene in senso lato, perché non voglio sapere perché voti a quel mondo, ti hanno offerto i consigli di amministrazione. C'è un ascoltatore che mi ha appena accusato di essere leghista, quindi va bene così. Allora, ecco perché non ti hanno offerto un posto, perché passo... veramente... È impossibile, apriamo una gara, conoscere uno che appartenga a quel mondo e magari sia stato escluso dalla politica o ridimensionato, che non ottenga un posto in quei consigli di amministrazione. Insomma, mi stupisce per il PD, no, ma per il Movimento 5 Stelle, perché poi qualcuno glielo farà il conto di tutti quelli indicati da loro e al momento delle elezioni rischiano di pagare un prezzo, se non altro per essersi comportati come facevano le correnti democristiane ai bei tempi. Tutte persone pregiatissime, quelli che entrano in consiglio di amministrazione, per non dire di Padoan, a cui vanno i miei complimenti e le congratulazioni, però questo passaggio dal mondo pubblico, dal mondo della politica, al mondo in questo caso privato, della gestione. Privato, complimenti a tutti. Mettiamola così. A proposito di cariche, mancano 5 giorni, caro Paolo, alla conclusione della vicenda Davigo. Pier Camillo Davigo, lo ricordiamo, il 20 ottobre farà 70 anni, non potrà più essere magistrato perché andrà in pensione, la perplessità è se debba decadere anche dalla carica di membro del CSM. Lui dice di no, lui dice devo rimanere là. Altri dicono adesso, no. Fino adesso tutti, compresa una speciale commissione del CSM, gli hanno dato contro. Ma i giornali che se ne intendono di queste cose dicono che il 19 ci sarà una seduta, cioè il giorno prima del suo compleanno, una seduta definitiva in cui gli verrà dato sì, anche perché Davigo è potentissimo, importantissimo, anche lui prestigiosissimo, appoggiatissimo, qualcuno dice anche che è appoggiato dal capo del CSM, il Quirinale. Io non ci credo, mentre gli altri che non credo che il Quirinale si sbilanci, Mattarella si sbilanci in una storia come questa, però lo registro per averlo letto sui giornali, ed è possibile che in questa riunione del 19 votino a favore della sua andata in pensione, ma permanenza come membro del CSM. Se lo conosco, data la valanga di no e di obiezioni venute dall'interno stesso del CSM, secondo me subito o dopo poco Davigo lascerà quell'incarico, perché è brutto rimanere in quel posto. Però sai, io non sono come te, io le previsioni le sbaglio e ammetto di averle sbagliate talvolta. Paolo, hai qualcosa per chiudere? Magari dall'estero, vediamo se lo peschiamo. Dall'estero oggi riportano i giornali, danno grande valore a una previsione secca di Bruce Springsteen, che dice sicuro ormai Trump perderà e ci sarà l'epoca di Biden. Non si mostra molto entusiasta di Biden, però dice che cacciare Trump sarà una soddisfazione. Nel frattempo Biden sta facendo un'operazione molto curiosa, di cui dà conto la Repubblica, che va a caccia dei repubblicani trasmigratori, perché anche lì ci sono i trasmigratori, non solo in Italia. Noi ci autoflagelliamo troppo e Biden ne sta reclutando parecchie persone che negli ultimi tempi hanno mosso obiezioni a Trump e che sono a caccia di un posto. Ma sai perché sono preziosi? Perché in questi giorni si vota per la giudice costituzionale e può darsi che quel voto riservi una sorpresa. E non posso parlare degli esteri senza raccontare che all'ONU, parla ancora Repubblica, la Commissione per i diritti umani, sono tra tutti i paesi più illiberali: Cina, Russia, Pakistan, Cuba, Bolivia. Ma c'è stato un inaspettato, solo paesi liberali. La Commissione per dei diritti umani dell'ONU, per carità. Ma c'è stato però un no all'Arabia Saudita, e i più sofisticati motivano questo no all'Arabia Saudita perché l'Arabia Saudita, senza aver riconosciuto Israele, ma sta guidando segretamente quel processo per cui gli Emirati Arabi e molti realtà ad essa riferite riconoscano Israele, e quindi è stata punita. È l'unico paese illiberale, l'unico paese illiberale. Ma come proprio noi che mandiamo la gente nelle ambasciate ad uccidere i giornalisti, proprio noi, dice, scusate, potevate tenerci però una commissione comunque, diritti umani. Adesso ti lascio, ma mi stupisco di te che non mi hai fatto fare tutta la rassegna sull'arresto della Marogna. Fermo restando che tu sei la donna, la dama di Beciu, che viene accusata di essersi appropriata di un sacco di soldi, e insomma tu vedremo l'evoluzione. L'hai tenuta d'occhio fin dall'inizio, mi stuzzica. Ci torneremo. Grazie Paolo Mieli anche per oggi. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 8. Ciao Paolo. Ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Ed eccoci di nuovo alle 8, 37 minuti e 30 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, per affrontare un altro argomento. Come promesso, oggi ci prendiamo una pausa da Covid, lo faremo anche spesso nei prossimi giorni, perché appunto non si può parlare solamente di quello, la vita prosegue, ce ne sono tanti altri di argomenti, e uno di questi è quello, se vogliamo metterla un po' più larga, delle gravidanze indesiderate. È un tema che si compone di tanti elementi che faticano in queste ore a delineare un quadro chiaro, e che però partiamo da uno di questi elementi. E questo elemento è: l'Agenzia per il Farmaco ha stabilito nei giorni scorsi che la pillola cosiddetta dei 5 giorni dopo, che non è una pillola abortiva ma una pillola contraccettiva, che però si prende ovviamente dopo il rapporto, potrà essere data alle minorenni anche senza ricetta. C'è stata una levata di scudi su questo dalle associazioni cattoliche e dalla politica di impostazione cattolica, per così dire, ma non solo da quella, con qualche perplessità anche dal mondo più tradizionalmente liberale rispetto a questa decisione, per quanto in alcuni paesi questo sia già così da qualche anno. Questo quadro, se vogliamo comporlo, mette insieme tante cose e tanti piccoli elementi di cronaca, seppur importanti, che abbiamo raccolto in queste settimane. La vicenda del cimitero dei feti al Flaminio, che con i nomi delle madri, con i nomi delle madri sopra. La vicenda della pillola abortiva, questa, la RU486, che ha innescato uno scontro tra due regioni, segnatamente il Piemonte e l'Umbria, e il governo, con Piemonte e Umbria che obbligano a ricovero le donne che ne fanno uso, e le indicazioni del ministero che invece dicono no, basta il day hospital. Ce n'è per ragionare intorno a tutto questo, e se volete anche per ragionare intorno allo stato di attuazione della legge 194. Tra poco ci raggiungerà, diciamo, lo facciamo con due opinioni diverse, come ovvio che sia, sperando che l'altra di queste due opinioni, che è quella di Paola Binetti, senatrice di Forza Italia, si faccia raggiungere al cellulare. Se c'è qualcuno vicino a lei che ci sta ascoltando, faccia la cortesia di dirle che di liberare il telefono o di farsi trovare in un posto dove prende. Intanto saluto Lucia Bongarzone, responsabile nazionale pari opportunità e politiche per la famiglia del PD. Bongarzone, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Ovviamente siamo qua anche con voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, all'800 24 00 24, al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio e per le vostre voci. Come dicevo, Bongarzone, le perplessità sono state su questa decisione dell'AIFA sono state sollevate da parte del mondo cattolico, da gran parte del mondo cattolico, in realtà non solamente da quello. Qual è la sua idea? Ma lei prima ha riassunto molto bene, nel senso che finalmente l'AIFA ha introdotto con una recente determina che, come ha detto benissimo lei, è in linea con gli altri paesi, l'utilizzo del farmaco senza obbligo di ricetta anche per le minorenni. In realtà già nel 2017 questa, diciamo, indicazione era all'interno delle linee guida essenziali dell'OMS, che inseriva proprio questo farmaco come programma d'accesso ai farmaci contraccettivi. E parliamo appunto non di una interruzione volontaria della gravidanza, perché non va confusa, purtroppo molto spesso si fa questo errore di confondere la pillola del giorno dopo, la pillola di 5 giorni dopo, con la RU486, che sono due cose completamente differenti. E purtroppo invece, come dire, anche nel mondo politico spesso si fa questo errore di confondere i due livelli, perché uno è un livello di contraccezione, seppur appunto specifichiamolo, contraccezione d'emergenza, cioè che viene utilizzata solamente quando c'è il rischio, insomma, si ha un rapporto a rischio, quando una contraccezione utilizzata magari è fallita, e prima la si assume, prima chiaramente inizia la sua efficacia. E non è in nessun modo una pillola abortiva, in quanto, come dire, interviene proprio su un'eventuale ovulazione, quindi inibisce un'eventuale ovulazione. Quindi deve essere utilizzato appunto in modo consapevole e responsabile solamente in situazioni di emergenza. Il fatto che molti adolescenti, molti ragazzi non conoscano i metodi contraccettivi, o non conoscano, come dire, non abbiano sufficienti informazioni, ci deve spingere, come dire, a lavorare più, a indignarci più che sul, come dire, l'utilizzo di un metodo che in qualche modo va incontro soprattutto alle ragazze, al fatto che sono loro poi comunque che devono che hanno delle conseguenze rispetto a un eventuale rapporto a rischio o comunque nel momento in cui non c'è un'efficacia della contraccezione utilizzata, e soprattutto, come dire, una scelta che poi inibisce eventuali scelte future, quindi la ritengo sicuramente quindi valida da un punto di vista di quello che è, cioè una contraccezione d'emergenza. Poi è evidente che bisogna intervenire sulla prevenzione. Sulla prevenzione. E, allora, siamo riusciti finalmente a raggiungere la senatrice di Forza Italia, Paola Binetti. Binetti, buongiorno, eccoci qua. A voi e buongiorno ai ascoltatori. Allora, ci dica un po' che cosa ha in contrario a fronte di una pillola che è una pillola riconosciutamente contraccettiva. Allora, praticamente al contrario tre cose. La prima è la parola ultima che ho sentito dire dalla persona che parlava prima di me, che è prevenzione. La seconda è che quando si parla di pillole minorenni si va da un'età di 13 anni a un'età di 18 anni. Una cosa è il minorenne diciottenne, una cosa è il minorenne tredicenne. E sappiamo che in molti casi oggi sono sessualmente attive anche ragazze che sono poco più che bambine, e per le quali poter accedere direttamente a un acquisto senza condividere l'esperienza, che è da un lato l'esperienza della paura, la paura ovviamente di rimanere incinta, perché questa è la logica che presuppone l'acquisto di un farmaco di questo tipo. La seconda cosa è la prudenza generale, per cui noi manteniamo alto il livello di guardia rispetto al controllo delle terapie di qualunque tipo, genere, specie, e poi davanti a un farmaco che evidentemente non è solo un farmaco contraccettivo. Sappiamo tutti dagli studi che l'L1 ha anche una sua componente di tipo abortivo, con tutto quello che questo potrebbe comportare dal punto di vista anche dell'organismo, di emorragie, eccetera, eccetera. Lasciamo totalmente soli gli adolescenti. Terzo punto, ultimo ma non ultimo, che in questo modo non ci sarà nessuna possibilità di controllare quanti adolescenti consumano, per quale ragione lo consumano, perché sarà venuto meno non solo la relazione fiduciale tra l'adolescente e la sua famiglia, ma sarà venuta meno anche la relazione fiduciale tra l'adolescente e il suo medico. Sarebbe bastato fare leva probabilmente molto di più sulla discrezione, e se vuole sulla segretezza della relazione medico-paziente, però, lei dice, però, e lei dice farlo passare comunque questa scelta, questa decisione da un medico senza necessariamente avvisare i genitori, ma poi il medico può non avvisare i genitori, no, capisce, so, che è un po' un problema questo. Di questo se ne può parlare, ma per non parlare di questo noi lasciamo l'adolescente totalmente solo, anche solo davanti alla possibilità che questa pillola potrà essere, come io sono iniziata, nell'ambito di un'attività relazionale, consultoriale. Adesso io non voglio dirle, sì, capisco la crisi della relazione nella famiglia, capisco, chiaro, pure forse la complessità in questo momento di avvicinarsi a un ospedale Covid parlando, però devo dire che una ragazzina di 13 anni possa andare in farmacia a chiedere la pillola, prendersela, e poi, data la promiscuità con cui in questa fase incipiente della loro sessualità gli adolescenti possono incorrere, c'è anche la falsa idea che questo potrebbe pure proteggerla da patologie, da malattie sessualmente trasmesse. Mm. Cioè la dimensione non credo, nel senso che sa Binetti, qua abbiamo dei cinquantenni, non la metterei là perché abbiamo dei cinquantenni che credono che il Covid non esista, quindi non la metterei, ha capito, non ha capito, non ha capito, ha capito, quindi aspetti però dico, non la metterei su quello, sulla tredicenne che non sa e non sa, aspetti un attimo, vorrei farle rispondere da la persona che ha parlato prima di lei, Lucia Bongarzone del Partito Democratico, responsabile nazionale pari opportunità e politiche per la famiglia. Ma vorrei sentire anche Fausto da Vicenza, per esempio. Fausto, buongiorno, eccoci. Buongiorno Simone, io porto un'esperienza, diciamo, personale, avendo avuto un bambino che è nato alla 24esima settimana e pesava mezzo chilo, per cui ho l'argomento che mi sta a cuore. E dico che piuttosto che vedere ragazzine che vanno 3 o 4 volte a farsi togliere un bambino con un cuore che batte, è meglio che vadano in farmacia a prendersi la pillola 2 o 3 giorni dopo. Lo dice da cattolico, Fausto? No, lo dico da completamente agnostico e non credo, non ho vincoli religiosi né dogmi religiosi, sono molto ampio su questo punto di vista. Penso che l'etica venga prima e il rispetto della vita lo stesso. Il problema è chiedersi perché queste ragazzine sono più incentivate ad andare a prendere una pillola 3 giorni dopo piuttosto che un preservativo 2 giorni. Sì, ma a volte, guarda, ci sono 1000 cose, 1000 racconti, non so se questa è una fascia protetta nella quale queste cose si possono dire, però ci sono casi di ragazzi che se lo tolgono il preservativo durante il rapporto, eccetera, cioè, quindi ci sono 1000 motivi per i quali tutto questo può avvenire, un errore, un malfunzionamento, tutto quello che vuole. Allora, Lucia Bongarzone, la farei rispondere a Paola Binetti, sì, aggiungendole una domanda, c'è un ascoltatore che la mette giù un po' brutale e la mette così: ma come, per i tatuaggi serve l'autorizzazione del genitore e per una cosa di questo genere non serve l'autorizzazione del genitore? La butto, è un po' grezza messa così, lo capisco perfettamente, per carità, però gliela metto là perché sa, è una delle domande che arrivano, prego. Certo, innanzitutto mi faccia rispondere alla onorevole Binetti dicendo che io non ho detto che la pillola di 5 giorni dopo è un sistema di prevenzione, io ho detto che bisogna lavorare sulla prevenzione. Ho ribadito più volte che la pillola è un sistema di contraccezione ed emergenza, ed è proprio su questo, secondo me, che ci dobbiamo concentrare, sul fatto che non va utilizzata come metodo contraccettivo usuale, ma deve essere utilizzato come metodo contraccettivo d'eccezione. Questo però ci pone, lo diceva benissimo il relatore che è intervenuto prima di me, il tema della prevenzione, il fatto che per esempio il 90% che noi dobbiamo informare i ragazzi a una relazione consapevole e a una contraccezione responsabile ed efficace che permetta di programmare una gravidanza, perché il 90% dei ragazzi ritiene per esempio che l'educazione sessuale stimoli una maggiore consapevolezza rispetto a questi temi, quindi è importante, quindi, cominciare a parlare anche di informazione, di educazione dei ragazzi rispetto a questi temi, così come anche il 75% dei ragazzi non sa che esiste un consultorio di zona o uno spazio dedicato agli adolescenti e solo il 4% si rivolge a un consultorio. Quindi anche qui, secondo me, bisogna lavorare sui servizi di prossimità che siano vicino ai ragazzi, o così come rendere maggiormente fruibile ai ragazzi i sistemi di contraccezione, quindi rendere nei consultori per esempio una contraccezione gratuita dove i ragazzi sanno che possono, come dire, avere una relazione, la relazione che prima, di cui prima parlava la senatrice Binetti. Guardi, buon Gargione, io penso che sulla parte della prevenzione possiate essere perfettamente in linea e perfettamente d'accordo, magari non sulla parte della distribuzione della contraccezione, non lo so questo, però prima di risentire la senatrice Binetti voglio sentire Ezio, la provincia di Imola, rapido se riesce. Ezio, buongiorno. Buongiorno, assolutamente, non ne faccio una questione né di religione né di politica, vi volevo semplicemente raccontare che io ho 53 anni e a 15 anni sono stato salvato da una pillola del giorno dopo, cioè, non per questioni di emergenza. Come? Non lei personalmente. Sono stato salvato perché diversamente, andando incontro a una gravidanza indesiderata, avrei comunque seguito la mia compagna di allora, però non sarei riuscito a sviluppare attività lavorativa, a fare quello che mi ha permesso di in questo momento avere una figlia felice a cui posso garantire un futuro. Per fortuna ho incontrato ai tempi abbiamo incontrato un ginecologo che ci ha permesso di portare avanti un discorso di questo tipo in assoluta emergenza. Sì. Un altro ascoltatore scrive invece, dice, con la mia ragazza abbiamo dovuto girare 5 ospedali, adesso vado a recuperare la provincia, dice, per avere una ricetta per la pillola del giorno dopo, tutti obiettori. Binetti, su quello che dice Buon Garzone, e se vuole anche su questo tema dei medici obiettori, tema di fondo. Il tema di fondo è che se ci fossero degli ambulatori per adolescenti, come in alcune strutture ci sono, ambulatori per adolescenti, intendo dire ambulatori di ginecologia per adolescenti, potrebbero rappresentare una forma di quell'educazione di prossimità a cui si possono rivolgere anche gli adolescenti, cosa che invece non c'è, mentre a mio avviso andrebbe incentivata, esattamente come il discorso sui consultori. Il tema di fondo è che, forse la collega Bergonzoni lo ricorda, nel 2018 mi sembra fu deliberato che fosse possibile acquistare la WANA, che di questo stiamo parlando, sì, per i maggiorenni senza ricetta. Ci fu un dibattito e il Consiglio Superiore di Sanità si espresse esplicitamente, come dire, dando parere positivo per l'uso per l'acquisto della LEWAN, sì, senza ricetta per i maggiorenni, dicendo non per i minorenni, perché in quel contesto, che è un contesto totalmente laico, un contesto pluralista, sì, un contesto in cui sono tutte le competenze di tipo scientifico, a livello da quelle di tipo più psicologico, più sociologico, cioè con tutte le variabili, sì, escluse in quel momento che fosse possibile autorizzare questa contraccezione di emergenza senza ricetta, sì, sui minorenni. A questo punto, di punto in bianco, senza nessun dibattito nel paese, senza nessuna presa di posizione nemmeno da parte del ministro, il presidente dell'AIFA, il direttore generale dell'AIFA, decide addirittura che è una questione etica. Io dico, se serve questa pillola, che sia presa in un contesto relazionale carico di significato positivo, non di significato sanzionatorio, ma di presa in carico, allora si potrebbe restare davvero l'emergenza. In questo caso corre il rischio di diventare, come spesso accade, la banalizzazione di una... Se lei cerca sui social, mi faccia dire quest'ultima cosa. Sì, perché dobbiamo chiudere. Trovo la domanda posta da un adolescente, dice, ma se io prendo la pillola del giorno dopo e dopo 5 giorni prendo la pillola del quinto giorno, allora sono molto più sicura. Su questo però va fatta corretta informazione. Grazie Lucia Bongarzone, grazie Paola Binetti per essere state con noi. Ci sarà modo forse in futuro di tornare su questi temi genericamente intesi. Grazie, noi ci sentiamo domani alle 6:30. Ciao. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Suoruba.it